Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È appena uscito in libreria l'ultimo romanzo di Margaret Mazzantini, si intitola Nessuno si salva da solo, pubblicato da Mondadori. Tutto gira intorno ad una cena nella quale una coppia in crisi, Delia e Gaetano, pensa e riflette sul proprio passato. Ecco come la Mazzantini descrive i due protagonisti. Sono due ragazzi di 35 anni che si ritrovano una sera a cena in una trattoria all'aperto. Si sono appena separati, hanno due figli piccoli, lui si è trasferito in un residence, lei è rimasta a casa è una storia d'amore e di conflitti e tutto è così vicino ancora, l'amore dell'inizio, la passione, ma anche poi le liti della fine, il fallimento, il senso di delusione, le illusioni e quindi tutto si mescola in un'unica serata. Che cosa è cambiato nella loro vita di coppia? Quindi è una storia d'amore, è un matrimonio, una storia di due ragazzi di oggi che probabilmente come dei figli di una generazione molle e quindi a loro volta un po' spersi, fragili. Le cose cambiano perché poi noi mutiamo, no? E quindi lei probabilmente è cambiata. Spesso siamo attratti da una persona probabilmente perché vediamo in quella persona tutto quello che manca a noi, no? Io una volta ho scritto, mi sembra l'amore è un buco che si infila in un altro buco e stranamente lo riempie, no? Credo che poi alla fine ci avviciniamo e poi l'amore ha una sua cecità all'inizio, no? Quindi c'è anche l'illusione, c'è anche poi mano a mano il velo cade, no? La cateratta dell'amore iniziale cade e tutti i confronti con un'altra persona, loro sono due ragazzi con delle mancanze, sono due ragazzi, in questo sono molto contemporanei, insomma sono due ragazzi fragili che hanno creduto in un assoluto, non ce l'hanno fatta e lottano ancora con questa illusione, no? Con questo desiderio, però a un certo punto lei dice se avessi avuto una manciata di anni in più addosso forse magari ce l'avremmo fatta, ecco, se avessimo avuto 10 anni in più sulle spalle, più delusioni sulle spalle, ovviamente quella è un'età di 30 anni in cui hai ancora la vita davanti, no? In cui puoi ancora sperare in un amore veramente totale, ecco, invece loro sentono che la loro relazione scricchia, non è più quella di una volta, non è più quella che è stata, insomma, probabilmente lei è cambiata più di lui, infatti lei lo dice a un certo punto, lui è uno sceneggiatore, è anche un ragazzo divertente, spiritoso, ma probabilmente è più adatto a essere un amante che non un marito, sicuramente è fuggito più volte, è mancato all'appello, e probabilmente lei è anche cambiata, i figli, e quindi è cresciuta, no? E questa crescita non avviene in contemporanea, a un certo punto poi loro, questo è quello che mi è piaciuto raccontare, il fatto che loro camminavano su sabbie mobili e quindi alla fine non si sa dove ha origine questo, dove è l'epicentro di questo terremoto, e poi nella vita è così, che in realtà ti ritrovi in crisi con una persona e non sai, ma quando è che si è spento, no? Quando è che l'amore è cambiato, quando è che è successo qualcosa, poi quando cominci a pensare, quando quel pensiero negativo ti entra dentro, quando quell'emotività negativa comincia a possederti, non ne esci più e in questo senso va in crisi, no? Perché sprofondi in un senso poi di disagio, di pensiero costante, sono ossessioni che ti perseguitano. Io poi ho un carattere molto ossessivo, quindi mi sono facilmente immedesimata in Delia, però credo che sia questo, cioè comincia questo germe della distruzione si infila un giorno, è come un fiorellino che si posa sul tavolo, no? E mano a mano tra le tante cose della famiglia, tra i passeggini dei bambini, il triciclo, il ciuccio, le cose eccetera, un giorno si posa anche il fiore della distruttività, no? Di qualche cosa che comincia a sfaldarsi, lui è come se in questa unica serata cercasse ancora, guardando negli occhi lei, cercasse ancora la verità, cercasse ancora il momento del fallimento. Dice, ma perché? È per un accappatoio buttato per terra che ci siamo separati, perché ero disordinato, perché io rispondevo troppo al cellulare e lei mi diceva ma perché non sai stare con noi invece di fuggire sempre, con chi devi essere collegato, no? Ci sono anche tutte le cose dell'oggi, no? Di tutto questo, lui è uno sceneggiatore, quindi è uno che lavora in televisione, che vuole mantenersi collegato con come spesso i ragazzi di oggi, ne sempre davanti a internet, gli sms, le cose. Lei probabilmente è più adatta a sprofondare, ad indagare, probabilmente più ferma di lui. Lei dice a un certo punto di se stessa, probabilmente sono una creatura, uno stampo che si ripete, una creatura, uno stampo femminile che si ripete, no? Quelle creature che vivono nella loro epoca senza successo. Poi lei ha avuto un passato di anoressia, è una ragazza che ha avuto anche i suoi dolori. Ma sono due personaggi sconfitti o portano con sé, insomma, la speranza di un cambiamento? No, io penso solamente che portano con loro la speranza di un cambiamento perché e di una rinascita, proprio per questo, perché sono ancora giovani, quindi da qualche parte sperano di potercela fare, però quello che credo che sia interessante è proprio questo, il fatto che sono ancora così giovani, sono ancora, hanno ancora il futuro davanti, però hanno questo grande, questa grande delusione, no? Perché hanno 10 anni di matrimonio, perché hanno 2 figli piccoli, no? E quindi c'è già il senso di questo fallimento, e questo mi interessava raccontare, il fatto che due ragazzi, infatti loro lo dicono alla fine, a vedersi passare nella vita di un negozio siamo due ragazzi, però c'è già questo segno, no? C'è già questa crepa, questo fallimento, no? Che pesa, quella è un'età in cui tu già vedi, come dire, i 40 anni, l'età adulta, vedi già probabilmente il fallimento che raggiungerai, no? Oppure sei ancora pieno di illusioni, sei ancora, quindi lotti con le illusioni, lotti con la voglia. E poi c'è anche, credo, proprio la contemporaneità, due ragazzi di oggi che si sposano, che ce la mettono tutta, che costruiscono una famiglia, che hanno una casa aperta, piena di amici, e poi dicono a un certo punto magari la città che ci ha uccisi, lo smog, la tristezza, il parco rosicchiato, ripetere sempre gli stessi gesti, mettere a tavola sempre le stesse cose. Io credo che alla fine sia un piccolo ricettario d'amore, ecco, insomma, alla fine comincio a ricevere le prime mail dei lettori e questo mi dicono, insomma, come dire, è una piccola, sì, veramente, come dire, sono un manuale d'amore credo molto sincero e molto anche forte, perché poi è emotivamente forte, insomma, e c'è questa lacerazione e questa passione, sono tutte lì vicino, perché sono lasciati da pochissimo, no? E quindi hanno ancora negli occhi come dire, il desiderio di farcela, no? Ogni tanto lui ha voglia di prendere la mano, di cercare, però il momento dopo ha voglia di strozzarla, di ucciderla, no? Ci sono tutte queste passioni in lotta tra loro, e quindi in questo senso è molto vibrante. Com'è nata l'idea di questa storia? Da cosa è partita? È partita in realtà perché volevo raccontare un libro molto contemporaneo di due ragazzi di oggi, e poi veramente da insomma, uno scrittore è innanzitutto un osservatore. Credo che ognuno di noi è capitato magari di passare una cena poco piacevole con il proprio compagno davanti a un buonissimo bicchiere di vino, di passare una serata veramente pessima e di dire ma e quel vino non ti va giù e quel cibo ottimo ti sembra terribile, e credo insomma semplicemente da una scena, da una situazione, poi guardare gli altri tavoli, no? Quella è già una situazione teatrale, perché comunque come dire, come se questa coppia fosse, avesse intorno una platea, no? di altri sguardi, di altre persone, c'è una coppia di anziani che loro ogni tanto guardano, probabilmente due che ce l'hanno fatta. Sì, poi sono come io non so mai esattamente cosa scriverò, mi lascio trascinare, sempre una scrittura fortemente, come dire, emozionale, mi lascio trasportare da quel sentimento che in quel momento mi spinge a compiere il gesto, che per me è un gesto importante. Infatti io dico sempre, non scrivo mai tanto per cincischiare, tanto per me, scrivo sempre, credo, con una intensità e una esattezza nell'onestà proprio di quello che metto in scena, ecco. E questa era Margaret Mazzantini, ora in libreria con Nessuno si salva da solo. Veniamo ora all'ultimo romanzo di Wilbur Smith, si intitola La legge del deserto, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Giampiero Irzer. Due personaggi principali, Hazel Bannock ed Hector Cross. Lei è vedova di un miliardario e ha ingaggiato Hector per proteggere l'impianto petrolifero. I due si avvicineranno quando la figlia di lei, Kyla, viene rapita. Ma sentiamo come ne parla lo stesso Wilbur Smith, intervistato da Marta Cagnola. He runs a security company, but he comes from a military background. Lui dirige una società di sicurezza e ha una formazione militare. È un uomo d'azione, un uomo che crede fermamente nella giustizia. Crede che i criminali debbano pagare il prezzo per le loro azioni. La protagonista femminile è Hazel Bannock. Da giovane era una giocatrice di tennis professionista di grande successo. Una donna molto bella che da giovane aveva sposato un magnate del petrolio più vecchio di lei, morto tempo prima lasciandole in eredità tutta l'azienda. Sono curiosa di sapere com'è nata l'idea di questa trama e in generale da cosa lei trae spunto per creare una storia. Well, the inspiration is my own imagination. L'ispirazione viene dalla mia immaginazione, al 90%. Ma in questo romanzo in particolare ho preso il background dalle notizie, dai giornali, da quello che ho visto in televisione su quanto accade nell'Oceano Indiano, dove ci sono trasporti di petrolio dagli Emirati Arabi e c'è la pirateria. Quindi il 90% è frutto della mia immaginazione e il 10% prende spunto dall'attualità. 90% of my imagination and 10% of actuality. Sono curiosa di sapere quali sono le sue abitudini di scrittura, ma anche di lettura. Se lei è un appassionato lettore e chi legge? How do I write? I write in my head. Per quanto riguarda la scrittura, elaboro le storie nella mia testa. È tutto un esercizio di immaginazione. Nella mente si formano le trame e quando cominciano a prendere forma, mi siedo davanti al mio computer e mi metto a scrivere. Come lettore leggo un po' di tutto. Leggo da quando ero ragazzo. Ho letto moltissimo, forse per questo porto gli occhiali. Avrò letto troppo da piccolo. I miei gusti sono piuttosto eclettici. Leggo dalla narrativa alle biografie, dai libri di storia alla tecnologia. Leggo un po' di tutto. E questo era Wilbur Smith, ora in libreria con La legge del deserto. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.